Radio 24 Reportage. Appunti di scuola di Maria Piera Ceci. Vince il primo premio per la migliore impresa JA 2006 e Enjoy. Le urla di giubilo che sentiamo non sono quelle del protagonista di oggi della nostra intervista, ma senza di lui probabilmente queste urla di giubilo non le avremmo sentite mai. Di fronte a me Armando Persico, che salutiamo. Salve Persico. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, presentarla non è facile perché fa un sacco di cose, fra poco ne parleremo, però la sua caratteristica fondamentale è che lei è un insegnante, quindi è questo che la contraddistingue sopra tutte le altre. Anzi, forse la potremmo definire un maestro più che un insegnante, in senso alto del termine. È davvero un insegnante speciale. I have seen Italian top 50 finalist Armando Persico being interviewed on TV and in the newspapers. A great teacher. Finally being given the attention that he deserves. Allora, di lei ha parlato perfino il presidente del Consiglio Gentiloni, che stiamo sentendo in sottofondo, perché Armando Persico è stato fra i 50 finalisti del Global Teacher Prize, unico italiano scelto dalla Varkey Foundation, fra 20.000 insegnanti di 179 nazioni. Persico alla fine il premio non l'ha vinto. Il milione di dollari è andato ad una straordinaria insegnante canadese, ma insomma la soddisfazione credo che resti comunque immutata. Persico, presentarla è difficilissimo, lo dicevamo prima della registrazione, perché cercando in rete, guardando nella sua pagina Facebook, davvero è un tripudio di foto con ragazzi sorridenti che innalzano trofei, medaglie, di lei in mezzo ai suoi studenti, e poi fa davvero tantissime cose. Comunque, cominciamo. Ambasciatore presso la Varkey Foundation, quella appunto del Nobel per l'insegnamento, giusto? Sì, giustissimo, giustissimo. Coordinatore nazionale Startup Program di Junior Achievement. Anche questo, benissimo. Direttore del programma di imprenditorialità all'ITS di Bergamo, a San Paolo d'Argonne, è un ITS per le nuove tecnologie per il Made in Italy. Questa di Bergamo è stata soprannominata la fabbrica degli imprenditori. Coordinatore scientifico sempre di imprenditorialità all'Istituto Icaro di Bergamo, sì. Che è invece una scuola superiore, un istituto di istruzione e formazione professionale. Esattamente. Quindi 14-19 anni. Esatto, sì. Un modo di fare scuola il suo, decisamente fuori dagli schemi. Nella home page di Icaros, cominciamo da qua, si vede una ragazza con uno splendido sorriso e accanto la sagoma di una persona di cui si distinguono due cose: un paio d'ali e un cuore rosso. Perché è proprio Icaros. Cioè, quindi questa figura di questa mitologica, di questo mito che appunto si è dato per volare, anche se non ne aveva magari immediatamente l'esigenza, comunque è dato come una prospettiva che è tipica proprio del nostro approccio verso i ragazzi. Proprio dire loro: guardate che non siete come apparite, come siete oggi, ma siete quello che dovete che potete diventare nel vostro futuro. Mettete le ali a questi ragazzi. Esattamente. E come le mettete le ali a questi ragazzi? Come li guardate? Come li formate? Prima guardiamo alle esigenze che le aziende hanno, non perché è importante che appunto vengano formate persone solo perché sono pronte per il mondo del lavoro, ma perché la realtà imprenditoriale ci dice in sostanza come affrontare la vita, perché l'imprenditore, per stare sul mercato, ha bisogno di capire quello che ha davanti, ha bisogno di reagire a quello che ha davanti, e noi chiediamo proprio ai nostri ragazzi di lavorare in questo modo. Ecco, con i ragazzi da un lato agite perché diventino loro stessi imprenditori, e da questo punto di vista tra l'altro avete avuto grossissimi successi. Dall'altro però avvicinate i ragazzi al mondo delle imprese della zona, quindi cercate di capire quali sono le esigenze delle imprese della zona e di formare dei ragazzi che possano essere utili. Quindi sono questi i due fronti su cui agite. Sì, sì, assolutamente, magari con una dimensione non solo locale, ma con una dimensione che è assolutamente internazionale. Ho visto dai vostri video, ci sono un sacco di ragazzi all'estero che si sforzano anche di parlare un buon inglese, insomma, cercano di mettersi alla prova. Our company is a very important company because we have innovated the use of the machine. Allora, vediamo questi due binari su cui lavorate. Dal punto di vista dell'autoimprenditorialità avete raggiunto dei successi straordinari. Quante startup ha fatto partire? Il 20% dei miei studenti esercitano un'attività imprenditoriale in proprio. E E hanno creato anche posti di lavoro per altre persone. E hanno creato 800 posti di lavoro. Questa è stata una sorpresa quando appunto ho iniziato a preparare la documentazione per il Nobel dei docenti. E lì appunto mi sono accorto, scorrendo nome per nome, questa persona ha cominciato a fare questo, questa, quest'altro, questa, questi dipendenti, questa, e appunto mi ha sorpreso tantissimo, ma è in linea con proprio le opportunità che vengono date proprio dall'introduzione dell'imprenditorialità nella scuola. Come si insegna l'imprenditorialità a scuola? Cioè, in pratica cosa fa lei con i suoi ragazzi? Innanzitutto parto con il agire con loro presentando dei casi di giovani che ce l'hanno fatta, di giovani che magari hanno anche fallito. Quindi cerco di dare proprio una ampiezza, diciamo, delle opportunità che ci sono. Poi andiamo più nel dettaglio e a questo punto lavoro con i ragazzi proprio perché si guardino intorno. Applicati. E sono nate anche delle belle idee, ho visto. Sì, sì, sì. Tipo? Quella cui, diciamo, io tengo di più proprio perché è un po' quella che ha dato il là a tutto, è il portaombrelli per auto. Stiamo parlando del 1999, dove una ragazza rientra in aula e dice: io ho il problema che i miei genitori mi hanno detto che c'è il problema che entrando in auto, cioè quando, dopo che è piovuto, l'ombrello fradicio dà fastidio fra i piedi. Benissimo, ho detto vabbè, allora cominciamo a capire cosa possiamo fare. Due settimane dopo torna con un sacco di juta. E questo sacco di juta era, diciamo, il prototipo. Il primo prototipo del portaombrelli per auto che poi abbiamo realizzato. Poi di questo l'hanno brevettato, ne hanno venduti veramente tanti, tanti pezzi e quindi... Una storia di successo. Sì, sì, sì. Una storia di successo che parte da una forte motivazione anche personale, perché voi fate leva sui ragazzi perché scoprano anche questa voglia di fare e che imparino a farle le cose, no? Quanto è importante questo saper fare anche con le mani? È bellissimo vedere i ragazzi che partono dalle questioni pratiche, poi è importante che li si aiuti ad effettuare l'astrazione, quindi anziché partire dall'astratto e quindi dire studia perché ti servirà, si parte dal concreto. Assolutamente, questa da una parte, poi dall'altra invece ci sono i ragazzi che si mettono sul mercato del lavoro, i suoi ragazzi, e devo dire con un riscontro importante. 9 su 10 hanno il lavoro già all'atto del diploma. Accidenti, di questi tempi. Ma questo è l'esito, certo, di una sicuramente di un territorio che dà molto da questo punto di vista, però proprio è l'esito di una sequenza di operazioni che noi facciamo come quelle che ho detto in precedenza, cioè quindi lavoriamo con le aziende, costruiamo i corsi insieme alle aziende, eroghiamo insieme alle aziende e poi tirocini, e tutto questo li mette proprio in condizioni di essere molto preparati per il mondo del lavoro. Teniamo presente che a livello europeo tutti questi percorsi esistono già da parecchi decine di anni, per cui diciamo che l'Italia era un pochino indietro da questo punto. Si è messa un pochino al passo con i tempi, con l'alternanza scuola-lavoro, che per lei è nata un sacco di anni fa, no? Quindi sì. Adesso è diventata legge con la buona scuola. Come sta andando questo percorso dell'alternanza? Secondo lei è una buona cosa? Si può fare di più? Io ho incontrato tanti colleghi che in un primo tempo mi dicevano: ecco, adesso dobbiamo metterci anche... Solita scocciatura. Esatto, solita scocciatura. Però poi man mano invece si rendono conto che guardando i ragazzi e gli esiti sui ragazzi si vede che in realtà è un ottimo strumento che si ha in mano per lavorare con i ragazzi. I ragazzi crescono lavorando, crescono facendo piccole esperienze, naturalmente sono esperienze che vanno monitorate, no? Perché sì, non devono essere manodopera a basso costo, devono avere un valore formativo. Voi controllate anche da questo punto di vista che le aziende operino in maniera legittima? Sì, sì, assolutamente. Questo è proprio la base da cui partiamo. Nel momento in cui si lavora con le aziende, si capiscono le loro esigenze, si costruiscono i corsi insieme alle aziende, si erogano insieme a loro, è per forza che il tirocinio poi diventa assolutamente formativo, perché perché compartecipano, cioè, quindi non è un chiedere all'azienda, guarda, fammi un favore, tieni il ragazzo per una settimana, due settimane. Esatto. Ecco, l'importanza dell'educazione nel senso letterale del termine, ma anche l'importanza all'insegnamento delle soft skill, che lei in realtà chiama le real skill. Che differenza c'è? Sì, semplicemente perché il rischio è che se noi le chiamiamo soft skill, purtroppo le diciamo che sono leggere, opzionali, se ci sono bene, se non ci sono a questo punto vabbè, fa niente, mentre invece è importante chiamarle le reali perché sono le abilità di tutti i giorni, sono vive, concrete, presenti in tutto quello che noi facciamo, per cui se noi le guardiamo in questo modo e abbiamo accanto maestri che hanno passione per quello che fanno, che ci trasmettono questo, è evidente che poi l'esito è che queste abilità possono essere imparate, come, certo, come si dice. L'insegnamento non è per tutti. Ma un'altra cosa importante è che poi noi scegliamo i maestri, insomma, scegliamo i docenti, ma scegliamo i migliori, cioè a noi interessa mettere accanto ai ragazzi, adesso faccio un esempio, per i cuochi, cioè i cuochi stellati, non magari il cuoco che è appena iniziato a lavorare, ma il meglio che si possa presentare. Assolutamente. Che si noi possa abbiamo offrire. Il quarto anno, per esempio, sempre nei percorsi professionali, che viene quasi esclusivamente tenuto all'estero, quindi estetista, parrucchiere, viene data la possibilità di effettuarli all'estero e quindi a questo punto il quarto anno diventa uno strumento attraverso il quale, vabbè, chiaramente di formazione anche della persona, sì, insomma, perché si vedono altre esperienze, eccetera. L'insegnamento del dottor Persico comunque mi ha spronato tantissimo a provarci, perché è stata una delle poche persone che ha veramente creduto in me fin dall'inizio e mi ha dato la possibilità di avere delle sfide sulla quale confrontarmi. Dicevamo, l'insegnamento non è per tutti, un argomento molto delicato. I genitori si lamentano sempre, l'insegnante che non ha voglia, l'insegnante che tira un po' a campare, l'insegnante che non ascolta e non sa ascoltare gli studenti. Perché quanto è importante lavorare insieme? I suoi studenti lo sentiamo, ci raccontano, lei non ha mai bisogno di alzare la voce, probabilmente sa trasmettere anche quella che è una vera passione. È importante questo. Io ho avuto una grande fortuna di poter lavorare in istituti, in scuole, i cui dirigenti mi hanno sempre aiutato a tenere anche, non so, per esempio, i consigli di classe, i collegi docenti, però su questo livello qui. Perché a questo punto stimiamo i ragazzi, stimiamo i genitori, stimiamo il lavoro che stiamo facendo. Poi è chiaro che in tutto questo abbiamo davanti la libertà del ragazzo, per cui è ovvio che non è garanzia di successo, mettiamolo in questi termini. I ragazzi ci devono mettere anche il loro lavoro, il loro studio, il loro impegno, certamente. Vi sarà capitato anche di perdervi per strada qualche ragazzo? Purtroppo sì. Sì. Purtroppo. Però c'è da dire questo, che ho avuto anche ragazzi che sono stati poi magari non promossi, mettiamolo in questi termini, però dopo sono tornati e si è instaurato un bellissimo rapporto proprio di fiducia, dove i ragazzi domandano: ma devo fare questa cosa, cosa ne dice il professore, cosa? Quindi si continua sempre nel rapporto, nonostante magari ci sia stato questo momento, appunto, che chiamiamolo di fallimento, insomma, di fallimento, perché anche dai fallimenti si impara tantissimo, sì. Perché i fallimenti vengono vissuti molto male a scuola, la bocciatura, sì, il compito che va male, il brutto voto viene sempre visto come un fallimento in senso negativo, invece voi insegnate ai vostri ragazzi a ripartire proprio da questi fallimenti e a crescere con questi fallimenti. Dobbiamo vedere proprio questi momenti qui, appunto il fallimento, in realtà come momenti assolutamente positivi, cioè da cui ripartire grazie proprio all'esperienza che si è fatta per quello che è capitato, insomma, magari sposto l'argomento anche su altri discorsi come le competizioni a cui i miei ragazzi hanno partecipato, dove è vero che avete vinto, ma molto spesso avrete anche perso. Esatto. Proprio il fatto che non si sia vinto non determina tutto il lavoro che si è fatto. Come del resto, se si vince, non è che per allora a questo punto abbiamo fatto tutto bene, ma è interessante lavorare dopo con i ragazzi, proprio ragionando sulle sconfitte, ragionando sul fatto che magari si è sbagliato quella cosettina, allora poteva essere fatta meglio. Però se si riparte da lì e abituare i ragazzi a ripartire da lì, significa proprio aiutarli veramente a crescere. Grazie ad Armando Persico. È stato un piacere, grazie a voi.